Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio, l'ultima versione della manovra economica straordinaria che ha l'obiettivo di portarci al pareggio di bilancio. Come sapete bene, perché se ne è parlato molto, contiene nuovi interventi sulle pensioni, un ambito che è già stato sottoposto a tante modifiche negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi. Siccome il rischio è sempre quello di fare confusione, noi cerchiamo oggi di tornare a fare intanto un riepilogo sulle modifiche più recenti, ma ci concentreremo in particolar modo sulle novità che riguardano le donne, perché una delle novità più importanti riguarda proprio molte delle signore all'ascolto. Per le donne che sono nate nel 1951 non cambierà nulla: la pensione di vecchiaia arriverà quest'anno con il compimento del 60° anno di età, ma a partire da quelle che ora hanno circa 54 anni l'età della pensione si sposta dai 60 ai 65 anni. Saranno infatti queste le prime donne a confrontarsi con la nuova misura del governo che fa partire dal 2014 nel settore privato l'adeguamento graduale dell'età pensionabile delle donne appunto ai 65 anni di età degli uomini, requisito che per le impiegate invece del settore pubblico entrerà in vigore molto prima, già dal 1° gennaio del prossimo anno. Questo dunque il tema principale del quale ci interesseremo questa mattina, però con l'avvocato, il nostro esperto previdenziale ormai preferito, l'avvocato Giampiero Falasca, faremo anche un punto di tutte le altre cose che bisogna ricordarsi, di tutte le novità appunto sulle pensioni che sono intervenute con la manovra straordinaria, come abbiamo già ricordato. Avvocato Giampiero Falasca, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno Deborah, buongiorno. Allora, sì. Se non mi sentite bene, ma alla pensione bisogna arrivarci, quindi sono in giro per lavoro. Scusatemi. Lo peschiamo sempre in giro per l'Italia, ma l'avvocato Falasca non vuole mai farsi mancare l'occasione di mettersi a disposizione dei nostri ascoltatori, che potranno anche stamattina interagire con lui, con noi, chiamandoci all'800240024, oppure se volete scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24. Merita come sempre stamattina un'occhiata anche la borsa, che ha avuto un andamento decisamente volatile dalle prime battute. Intanto, prima di aprire la seduta, in Europa si è appresa la notizia, che per la verità circolava sul mercato già da qualche giorno, secondo la quale appunto Moody's sarebbe stata pronta a emettere il suo downgrade, il suo giudizio negativo sulle banche francesi. Il giudizio è arrivato questa mattina. Il downgrade riguarda Société Générale e Crédit Agricole, che hanno avuto appunto un abbassamento di rating. Questa misura non tocca al momento BNP Paribas, che comunque rimane, ha detto Moody's, sotto osservazione. Qual è stata la reazione della borsa? Allora, intanto sono andate male le borse asiatiche, poi vi spiego le motivazioni. In realtà quella motivazione che per l'Europa pare positiva e spinge al rialzo i mercati, in Asia è stata vista male, cioè il fatto che la Cina e i paesi del BRIC siano pronti ad un intervento in soccorso del vecchio continente acquistando bond europei. Appunto stamattina su questa prospettiva l'Asia è andata male, il Nikkei ha chiuso con un ribasso dell'1,14%, portandosi peraltro appunto proprio su livelli piuttosto bassi che non vedeva da diversi anni. Per quello che riguarda invece, stavo riguardando appunto a quel livello fosse arrivata Tokyo, è il livello più basso dal 28 aprile del 2009, ecco il punto che cercavo per la precisione. L'Europa invece cosa ha fatto? È partita male, poi ha recuperato tutto, poi ha riazzerato tutti i guadagni, adesso ritorna su. Parigi più 1,28%, Francoforte più 1,38%, Londra più 0,77% e Milano sul FTSE MIB più 1,32%. Il caso del giorno a Milano, Ansaldo in questo momento fa più 23%, anzi più 24%, Finmeccanica più 10,44%. Cosa succede qua? A questo punto è una notizia alla quale il mercato crede pienamente. Finmeccanica sarebbe pronta a cedere Ansaldo e Ansaldo Breda agli americani di General Electric, e questo appunto spinge in maniera così corposa il titolo, con una prestazione che non si vedeva da tempo sul mercato italiano, ormai abituato a vedere solo crolli continui dei titoli bancari e di molti titoli anche del settore industriale, penalizzati dalla possibilità che si ricada in recessione economica. Naturalmente la galassia Finmeccanica contagia con la sua crescita anche STM, l'inflazione che cresce del 5%, il titolo ha avuto un giudizio positivo da parte degli analisti di Royal Bank of Scotland. Bene Prysmian, più 3. Il settore bancario rimbalza quasi tutto e cresce quasi tutto. Intesa più 3, Mediolanum più 3%, Banco Popolare più 2,33%, Popolare di Milano più 2,20%. Un po' più difficile la giornata di Unicredit, che cede lo 0,20%. Qua ormai si aprono le carte, si svelano le carte sul possibile nuovo aumento di capitale per il gruppo, che potrebbe essere definito nei prossimi mesi, e il titolo continua a soffrire, anche se il peggior titolo è UbiBanca, che scende di un punto percentuale. In difficoltà anche oggi Generali, meno 0,7%. Titoli di Stato, cosa succede? Lo spread rispetto al Bund, tra Bund e BTP oggi un po' più tranquilla, 387 punti base dopo che ieri è ritoccato i 400, riportandosi sui livelli degli inizi di agosto, e sembra che anche oggi la Banca Centrale Europea stia in procinto di acquistare titoli di Stato italiani, secondo quanto ha riferito stamane l'agenzia Bloomberg. Euro su dollaro a 1,36,87. Oggi arrivano molti dati economici dagli Stati Uniti, li terremo sicuramente sotto osservazione, ma intanto il tema che oggi monitoriamo da vicino a Salvadanaio è il tema delle pensioni e le novità che riguarderanno prossimamente le donne. Le diverse versioni della manovra si sono susseguite per tutta l'estate ed è stato difficile tenere insieme i pezzi, ma ora la decisione sembra definitiva. I tanto temuti tagli andranno a colpire anche il sistema previdenziale, cui vengono quindi applicate nuove modifiche che vanno ad aggiungersi a quelle già definite negli ultimi mesi, oltre che nella manovra estiva dell'anno scorso. L'ultimo ritocco riguarda le donne impiegate nel settore privato, alle quali dal 2014 sarà riservato lo stesso trattamento delle dipendenti pubbliche. Vedranno quindi slittare l'età della pensione dai 60 ai 65 anni. Il testo approvato dal governo a Ferragosto prevedeva un innalzamento graduale a partire dal 2016, che sarebbe andato a regime nel 2028. Ora, nel caso venisse confermato lo stesso meccanismo, si partirebbe nel 2014 per completare il passaggio nel 2026. Resta nel frattempo invariato il sistema delle finestre mobili, in base al quale si inizia a percepire la pensione solo dopo 12 mesi, 18 per gli autonomi e i parasubordinati, dalla maturazione dei requisiti. E tra non molto, come già previsto dalla manovra 2010, la permanenza al lavoro verrà ulteriormente allungata, agganciandosi al miglioramento delle aspettative di vita dell'Istat. Un sistema che sarebbe dovuto partire nel 2015, ma la cui applicazione è stata ora anticipata al 2013. Sulle pensioni, insomma, l'Italia continua ad attuare una politica di cambiamenti in piccoli passi, che se da un lato evita la sensazione traumatica di una rivoluzione, dall'altro sta creando senza dubbio non poca confusione, in particolare tra chi alla pensione è ormai vicino e non può non avere le idee chiare in materia. Confusione anche giornalistica, devo dire, perché ma lo dico solo perché ovviamente la materia è molto complessa e perché sto valutando le domande che ci state già inviando all'800240024 o anche al 349-238-6666. Noi speriamo di accontentare il più ampio numero di voi ascoltatori quest'oggi. Potete ben comprendere che se ci date un caso estremamente dettagliato sulla vostra situazione, darvi una consulenza puntuale così in due battute in una trasmissione appunto in diretta è un po' difficile. Cercheremo comunque di accontentarvi nel massimo delle nostre possibilità, soprattutto al massimo delle possibilità dell'avvocato Giampiero Falasca, che se comunque non riesce a rispondere mi aiuta quasi sempre con le mail appunto che ci scrivono gli ascoltatori all'indirizzo anche salvadanaio@radio24.it. Detto questo, avvocato Falasca, peraltro a prescindere dai casi individuali, molta polemica sulla questione sull'aumento dell'età di pensionamento appunto delle donne nel settore privato, molta polemica riguarda anche l'impatto che questo provvedimento ha sulla società, lo diceva anche un esperto che molto spesso abbiamo portato a Salvadanaio negli anni passati per commentare questi argomenti Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, che è una società di consulenza molto ferrata sulle tematiche previdenziali, e commentava sul Corriere della Sera nei giorni scorsi che questo innalzamento avrà una ricaduta sociale molto importante, perché ormai le donne non sono solo madri, ma a quell'età, oltre ad essere a dover continuare ad essere lavoratrici, hanno anche molto spesso il compito di accudire genitori anziani, quindi questa decisione avrà in futuro un peso notevole. Detto questo, è necessario anche intervenire in questo ambito per poter arrivare a questo obiettivo di pareggio di bilancio, almeno questo provvedimento che l'Europa ci chiede, abbiamo dovuto farlo. Detto questo, partiamo con la novità immediata. 1 gennaio del prossimo anno, aumento dell'età pensionabile per quello che riguarda le donne nel settore pubblico, avvocato Falasca. Quindi diciamo il primo impatto forte sarà a partire dal gennaio del prossimo anno. Sì. Per il settore pubblico la pensione di vecchiaia sale dal 1 gennaio a 65 anni, quindi quest'anno era già salita a 61, è una scelta, potremmo restare colpiti dalla nettezza della scelta, no? Cioè in una legislazione che ormai va a gradini sempre più dolci, tant'è vero che si fa fatica anche a chiamarli scalini, no? Gradini, scalini se si voglia, c'è qui invece un settore, quello della vecchiaia delle donne, che in 2 anni sale di 5 anni. La ragione per cui la scelta è così netta è molto semplice: ce lo impone, come spesso accade nelle vicende italiane, l'Unione Europea. Cioè, l'Unione Europea ha ritenuto discriminatorio il fatto che gli uomini del settore pubblico andassero a 65 anni e le donne a 60, discriminatorio e penalizzante per le donne, perché avrebbero avuto una pensione di importo anche più ridotto, e quindi ha imposto allo Stato italiano di elevare l'età, di portarla a 65 anni. La risposta che avevamo dato noi come ordinamento era la solita degli scalini, cioè si era ipotizzata una norma che prevedeva una salita in 6 anni dei requisiti, e l'Unione Europea ha detto assolutamente di no, e quindi è stato necessario, con la legge 122 lo scorso anno, rivedere il sistema e appunto prevedere un anno di crescita nel 2011 e arrivare a 65 già da gennaio prossimo. Questo ovviamente crea improvvisamente una differente trattamento con il privato, che quindi si è dovuto in qualche maniera colmare. Tra l'altro, a proposito delle donne del settore pubblico, c'è una disciplina anche particolare per quello che riguarda le lavoratrici del settore della scuola, perché chiaramente, pur maturando in qualunque periodo dell'anno i requisiti per andare in pensione, devono invece garantire chiaramente la conclusione dell'anno scolastico, e quindi per loro, come dire, la fuoriuscita, l'uscita dal mondo del lavoro avviene secondo un principio un po' più diversificato. Allora, magari lo spieghiamo nella seconda parte di Salva Danaio con l'avvocato Falasca, e poi andremo anche ai requisiti per la pensione di vecchiaia appunto delle donne, entrando più nel dettaglio e cercando di capire esattamente che cosa cambia a partire dal 2014, perché poi non è che quell'anno con il compimento dei 60 anni di età si può prendere e decidere di andare in pensione. Occorre tenere presente come funzionerà anche il nuovo meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita, i cosiddetti, come funzionerà anche il meccanismo di slittamento delle finestre che è entrato appunto a regime nel corso degli ultimi mesi. Ci sono tante novità, e quindi per ogni persona la situazione è estremamente differenziata, per cui bisogna essere anche piuttosto precisi su queste notizie. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina si ritorna a parlare con l'avvocato Giampiero Falasca, esperto in materia previdenziale appunto di pensioni. Perché? Perché all'inizio era il 2020, poi il governo ha puntato sul 2016, adesso l'anno X diventa il 2014, di qui a 2 anni anche per le donne nel settore privato, anche le donne nel settore privato dovranno andare in pensione a 65 anni, e quindi avranno lo stesso trattamento, come abbiamo spiegato ad inizio puntata, delle dipendenti pubbliche, finite già negli anni passati nel mirino dell'Unione Europea, che come è noto ha imposto all'Italia di equiparare l'età della pensione delle donne a quella degli uomini, quindi 65 anni a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Questo innalzamento però per le lavoratrici del settore pubblico sarà graduale quale, adesso lo spiegheremo, ma avvocato Falasca, intanto la domanda più importante, più frequente che ci stanno facendo gli ascoltatori, che sono pronti a sia a farci la loro domanda in diretta, ma anche quelli che ci scrivono, è se da qui al 2014 comunque le donne matureranno il requisito contributivo, cioè 40 anni di contributi pur avendo sotto i 65 anni, potranno comunque andare in pensione? Ah sì sì, questo assolutamente, ma anche dopo il 2014, intendiamoci. Cioè quello che resta, diciamo, la pensione con i 40 anni di contributi resta assolutamente possibile, anzi vi dirò di più, in questi giorni si sta parlando, perché vorrei evitare che gli ascoltatori pensassero che oggi si approva la manovra e quindi la materia della previdenza si calma, in realtà oggi si approva la manovra e poi inizia il discorso sulla delega assistenziale e già si dice che dentro quella discussione si parlerà, guardate un po', di riforma delle pensioni. Ok? Soprattutto quell'ambito dell'anzianità che non è mai stato toccato da nessun intervento. Infatti, ecco. Quello volevo arrivare. Si parlerà probabilmente di arrivare alla famosa quota 100, che non è altro che il sostanziale azzeramento delle pensioni di anzianità. Ma quello che non pare che non verrà mai toccato saranno le pensioni con i 40 anni di contributi, perché di fondo sono considerate un tipo di trattamento che ha una giustizia sostanziale, cioè chi ha versato 40 anni viene lasciato andare anche se è molto giovane, diciamo. Non è certo considerabile un caso di grande sperequazione. Benissimo, allora tenute fuori le persone che, e le lavoratrici che comunque riusciranno a maturare questo requisito contributivo, andiamo invece al mix tra il requisito anagrafico e contributivo e a come verrà combinato a partire dal 2014, avvocato Falasca, esattamente questa gradualità che porterà alle donne nel settore privato ad andare in pensione a 65 anni, come comincerà ad esprimersi fra 3 anni? Fra 3 anni salirà, il requisito salirà di un mese. E poi sarà un mese per qualche anno e poi diventerà 3 e poi diventerà 6. Ora basta andare su internet per vedere la tabellina con le crescite, però diciamo sarà, appunto ripeto, inizialmente molto lenta la crescita, gli ultimi anni diventerà di 6 mesi all'anno, in modo tale che in 12 anni, quindi dal 2014 al 2026, si passi da 60 a 65. Questo però si sommerà, questa crescita appunto del mese iniziale, poi di 3 mesi e dei 6 mesi, con le eventuali ulteriori crescite che partiranno dal 2013 dell'età pensionabile agganciata alla speranza di vita. Cioè c'è questo meccanismo che è la cosa più rivoluzionaria di questi anni, di cui si è parlato stranamente poco. Per cui tutti i requisiti anagrafici per accedere a tutti i tipi di pensione variano se la speranza di vita aumenta, ok? Chi certifica l'aumento della speranza di vita? Lo certifica l'Istat con cadenza triennale, quindi ogni 3 anni si fa il tagliando all'età media, se l'età media è cresciuta automaticamente si somma in una misura, c'è un coefficiente di calcolo poi proporzionale, il requisito di tutte le pensioni. Già sappiamo che alla prima scadenza del 2013 la prima crescita sarà di 3 mesi. Quindi teoricamente, avvocato Falasca, adesso io guardo molto oltre naturalmente e sto ancora parlando di fantaprevidenza, parliamo così perché adesso chiaramente dobbiamo interessarci anche alle persone che hanno in procinto di maturare da qui ad un paio d'anni i requisiti per andare in pensione, quindi cerchiamo di capire loro che cosa potrà succedere, ma teoricamente sulla base di tutte queste novità di cui parliamo oggi, nel 2026 una donna che avesse 65 anni e quindi abbia maturato i requisiti in quel momento per andare in pensione, sia appunto anagrafici che il 65esimo anno di età che contributivi, teoricamente non va in pensione immediatamente perché deve tenere conto dell'agganciamento alle aspettative di vita, le famose quote che potrebbero anche tornare a cambiare in quel periodo, le finestre mobili che sono state introdotte da poco, quindi 65 anni potrebbe anche andare in pensione 2 anni dopo. Guardi, è sicuro questo perché allora nel 2026 sicuramente non sarà 65 perché ci saranno stati nel mentre 13, 4 o 5 adeguamenti alle speranze di vita, ok? Che crescono, sappiamo che crescono, le proiezioni demografiche dicono che crescono. In aggiunta a questo, quindi sarà arrivato quantomeno a 66, ma forse anche di più il requisito reale. In aggiunta poi a questo succederà che la donna, come tutti gli altri, dovrà aspettare la finestra, che è una delle cose, lasciatemelo dire, più ingiuste delle riforme di questi anni. perché la finestra in realtà è un meccanismo tutto italiano, lo diceva Elsa Fornero un giorno in un articolo sul Sole 24 Ore. Ma che significa la finestra? Non so se qualcuno se ne è mai chiesto. Cioè l'unica piccola differenza con il vero innalzamento dell'età è che quando io maturo il requisito, da quel momento sono il titolare del diritto, ma appunto devo aspettare la finestra. Che tra l'altro anche lì è iniqua se andiamo a tenere conto della tipologia di lavoro che si fa, perché certo, è di 12 mesi. E in quel periodo io posso scegliere se dimettermi oppure restare al lavoro, ma di fatto è un ulteriore innalzamento. Poi, come dice giustamente lei, sono 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli lavoratori autonomi. E i parasubordinati, che sono sempre e i famosi lavoratori a progetto, sono penalizzati dal sistema previdenziale anche da queste regole. Quindi, mettiamola così, non si è voluto chiamare questo intervento aumento di un anno dell'età pensionabile, lo si è preferito chiamare appunto finestra, forse è stato più diplomatico, più accettabile per il consenso elettorale, più elegante. Di fatto è stato l'aumento appunto di un anno secco dell'età pensionabile, come dicevo. Per chi non se lo ricordasse, il meccanismo della finestra mobile introdotto dalla manovra del 2010 era quel meccanismo secondo il quale, come anticipava l'avvocato Falasca, la pensione può essere effettivamente goduta solo dopo aver atteso 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se si è un lavoratore dipendente, 18 mesi per gli autonomi o i parasubordinati. Quindi il momento di uscita dal posto di lavoro non è più scandito da intervalli fissi, ma da questo meccanismo che è stato chiamato anche a scorrimento, legato a due sole regole principali. Allora, detto questo, avvocato Falasca, qualche domanda da parte di qualche lavoratrice, che ci fa piacere che si sentano coinvolte ovviamente da questo tema, che per molte è giudicato molto frustrante. Sto leggendo davvero tanti commenti, perché tra l'altro, come ci segnala anche qualche mamma magari della mia età, ci racconta che effettivamente fa affidamento anche sulla sua mamma, che è più grande, che magari sta ancora lavorando, non tanto perché deve guardare in casa i nonni, ma anche perché potrebbe potenzialmente prendersi cura dei nipotini, per cui costringerla a stare sul lavoro ovviamente per molti anni in più cambia un po' tutta l'economia familiare, deve cambiare in prospettiva anche tutta l'economia familiare, ma dicevamo già dell'impatto sociale fortissimo di questa misura. Pochi commenti, andiamo alla ciccia e alla sostanza delle situazioni individuali. Teresina, che ci chiama dalla Sardegna, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti perché la trasmissione è troppo utile. Volevo dire, io ho 58 anni, sono andata via dal lavoro che ero giovanissima perché problemi miei, insomma, sì, che mi hanno costretto a lasciare quel lavoro. La legge del 93 mi ha dato la possibilità comunque di mantenere il mio minimo pensionabile, perché l'avevo maturato entro il 31/12/92. Poi sono arrivate tutte le altre riforme, per cui 55 anni non andava più bene per andare in pensione, cioè la mia pensione, che doveva arrivare a 55, non è arrivata. A 57 non se ne parla, adesso non se ne parla più neanche di 60. Quando è che mi fanno andare, che mi danno lo stipendio a me? Questo contributo di solidarietà che sto dando io, che è grosso perché è il mio minimo pensionabile di tutti i mesi, voglio capire. Allora, cioè, Teresina, voglio un attimo... Nessuno ci difende, a noi donne che abbiamo lasciato per la famiglia. E guardi, questo è il grosso problema di tutto, come dire, la questione di cui stiamo parlando. Come ben sa lei, Teresina, Salvadanaio, essendo una trasmissione con un forte connotato di servizio, cerchiamo di capire cosa cambia, cosa si deve fare, come prendere coscienza e confidenza con questi argomenti. Poi purtroppo lo spazio per il dibattito sociale e politico è riservato ad altre trasmissioni, però noi naturalmente raccogliamo anche tutte quante le perplessità di tutti. Saluto anche tutte le nonne che ci stanno scrivendo questa mattina al 349-238-6666. L'ultimo messaggio che leggo è quello di Daniela, che dice: io infatti guardo i miei genitori e mio nipote, che oggi ha iniziato la prima elementare, lavoro dalle 8 alle 12 ore, credo dalle 8 alle 12, non so se di mattina o dalle 8 alle 12 ore al giorno, faccio enormi sacrifici per i miei genitori e per mia figlia. Daniela, lo so, ci sono situazioni familiari che conosciamo tutti quanti, per cui tutta la nostra solidarietà naturalmente per le vostre situazioni individuali. Le nonne, ci scrive Laura, devono lavorare, non possono guardare i nipoti, ci sono anche i tagli agli asili nido, per non parlare di quelli che riescono a farli frequentare gli asili nido e si dissanguano mensilmente per pagare le rette, sono precari, l'asilo nido privato non me lo posso permettere. Allora, andiamo al caso della nostra ascoltatrice dalla Sardegna, non mi ricordo adesso il nome, Teresina, avvocato Falasca, che situazione particolare che aveva però la nostra ascoltatrice? nostra Scorsese era, non ci ha dato veramente tutti gli elementi per capirla, però se ho capito, lei diceva 58 anni, quando è che vado in pensione di vecchiaia, ho un minimale contributivo sufficiente, diceva, quindi se a mio avviso così... Qual è il minimale contributivo sufficiente, peraltro, avvocato Falasca, 20 anni di contributi? Sì, 20 anni di contributi, 20 anni di contributi, e quindi mi sembra strano, evidentemente lei aveva 15 anni di contribuzione al 31/12/92, sì. Quindi in quel caso gli è valido questo minimale, mi sembra aver capito. Comunque, diciamo, assumendo che siano veri questi elementi, io penso che l'ascoltatrice non sia colpita dall'aumento al 2014, perché comunque, e quindi lei tra due anni potrebbe andare. Quindi deve aspettare il requisito anagrafico dei 60 anni. E 60 comunque... anni più tre mesi, perché incrocia solo l'aumento delle speranze di vita. Delle aspettative di... La finestra mobile non la riguarda? Ah certo, quella la riguarda, però intanto matura il diritto. Benissimo, ecco, però prima che porta a casa l'assegno ce ne passa. Porta a casa il diritto ma non l'assegno, giusto? Sì, poi posso dire una cosa, in realtà noi diciamo 12 e 18 mesi, la verità è che sono 13 e 19, perché la decorrenza è alla fine del 12esimo del mese successivo ai 12, quindi è ancora lì, diciamo... allunga ancora di più. La questione è che noi possiamo stare a spiegare per 18 ore consecutive le regole generali del funzionamento dell'andata in pensione, poi di fatto ognuno deve assolutamente fare un check-up estremamente dettagliato della propria situazione individuale. Ci scrivono ancora tante nonne, io le bacio tutte quante perché non ne ho più, e in compenso mia mamma adesso sta facendo la nonna dei miei nipotini, per cui situazioni che conosco, quelle che ci stanno raccontando appunto le tantissime ascoltatrici che ci stanno scrivendo questa mattina. Andrei a sentire Daniele da Padova, che ci vuole evidentemente sapere qualcosa per la sua mamma, per la sua nonna, non lo so. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, non è né mamma né nonna, è la moglie. La moglie ci dica. Sì, parlo per conto suo e per conto di tante altre persone, donne sicuramente. Lei ha iniziato a lavorare molto giovane, a 16 anni, quindi se raggiunge 65 anni è chiaro che non ha più 40 anni di contributi, ma oltre. Volevo capire, i 40 anni di contributi sono una soglia massima, voglio dire, hai raggiunto i 40 anni, bene, vai in pensione o devi aspettare i 65 anni? No, per quello che riguarda il requisito contributivo dei 40 anni, quindi la pensione di anzianità, non cambia nulla, per cui a prescindere dall'età anagrafica, avvocato Falasca può far valere questo diritto. Sì, a regole oggi vigenti, tra l'altro... Sono 40 anni di contributi che si possono comporre anche di una quota di anni di riscatto, ricordiamolo. Che non è stato toccato, quell'ambito che aveva fatto infuriare tutto il mondo naturalmente, ma che non è stato appunto toccato. Non c'è stato più, per fortuna, c'è stato il nulla di fatto sulla cancellazione degli anni di laurea del servizio militare dal calcolo della pensione con i 40 anni di anzianità senza vincoli di età. Per cui Daniele e sua moglie... Se raggiungerà il requisito appunto contributivo, a prescindere dall'età anagrafica, potrà godere appunto la sua pensione di anzianità. A bocce ferme legislative, non è detto che nei prossimi mesi un intervento, un ritocchino verrà fatto anche su questo. Chi possiamo sentire? Marisa da Foggia. Marisa, rapidissima, grazie. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, mi scusi, io telefono perché più che altro sono molto molto arrabbiata perché il governo mi sta scippando la pensione ogni volta che fanno le nuove regole. Io ho già la quota per poter andare in pensione, potevo andare l'anno scorso, invece è aumentato di un anno. Sì. Adesso avevano deciso 2011-2012, il requisito era 60 e 36, all'improvviso cambiano le regole durante la corsa e io mi ritrovo che neanche questa volta posso andare in pensione, mi devo fare 41 anni e più. E questa cosa non mi sta bene, anche perché non è giusto nei confronti di tutti i lavoratori, perché ci sono differenziazioni. Cioè, io lavoro nel settore pubblico, però io devo andare a 41 anni, l'insegnante invece continua ad andare a 60 anni e 36 anni di servizio. Non più dal prossimo anno, però, Marisa. Anche dal prossimo anno, sì, nel settore scuola non è stato toccato. Io lavoro in un ambiente scolastico e le persone che hanno la mia età, i miei anni di servizio, l'anno prossimo a settembre andrà. Aspetti un po' lì allora, avvocato Falasca, visto che il tema scuola l'abbiamo toccato ad inizio trasmissione. Ma scusi, però io non capisco perché dice che le hanno toccato il diritto, perché se lei raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità, lei può andare, cioè quello che sale da da 61 a 65 è requisito per la vecchiaia per le donne del settore pubblico, quindi secondo me... Infatti, Marisa, ma lei quando raggiunge i 40 anni di contribuzione? Io nel 2013, invece con la legge che c'era del 2011, perché quelli del 2011 vanno in pensione, possono fare la domanda... e hanno 60 e 36 di contributi, invece dal prossimo bisogna avere 62 e 35 o 61 e 36, ma non è corretto cambiare le regole in corsa, perché uno si è fatto già il suo programma. Io, come diceva lei, sono una nonna, quindi volevo rimpossessarmi della mia vita dopo aver lavorato 39-40 anni, mi volevo rimpossessare della mia vita per poter dare una mano ai figli. Marisa, lo so, guardi, poi devo vedere lo scempio dei nostri politici che vanno in pensione dopo una sola legislatura, dopo 5 a 40, anni maturano, 50 anni, cioè io devo lavorare 40 anni, e questo, sono molto molto molto arrabbiata, cioè non è possibile, loro dicono a noi di fare i sacrifici, ma perché loro si prendono le pensioni dopo 5 anni? Marisa, quante di queste polemiche leggiamo sui giornali tutti i giorni, non sappiamo più in che lingua esprimere questo nostro sconforto per questo argomento. Possiamo solo ribadirlo, non possiamo fare altro. Avvocato Falasca, però intanto ritorniamo al caso appunto dell'ascoltatrice che praticamente si trova nel bel mezzo del cambiamento delle quote di anno in anno per poter andare in pensione. Le quote cambiano, quindi il mix fra requisito anagrafico e contributivo varia e Marisa per questo motivo manca di anno in anno l'uscita dal mondo del lavoro. No, è chiaro, però non hanno questo, diciamo, almeno su questo non è cambiato nulla, cioè il cambio anno per anno c'è, ma era previsto già da qualche anno, diciamo. Ma infatti guardate che io questi meccanismi di gradualità per cui chi fa le leggi pensa di attutire gli effetti sociali, io non li condivido anche per questo motivo, cioè diffondono incertezza e confusione, cioè l'ascoltatrice ha la convinzione che quest'anno siano cambiate le quote, non è vero, cioè c'è un cambiamento annuale di quote previsto da anni, cioè, quindi non sono cambiate le regole. No, però poi magari lei, avendo raggiunto la quota, gli si deve anche subire la finestra che gli fa slittare di un altro anno, tra quindi effettivamente... La 96 è fino al 31 dicembre 2012, quindi io le suggerisco di controllare, ma detto questo è emblematica questa telefonata, cioè ci dà l'idea della confusione che creano questi scalini, che invece i politici hanno l'illusione di fare per attutire gli effetti sociali di queste manovre. Ho la sensazione che non funzionino gli scalini. Però intanto non funzionano, ma intanto al momento che ci si trova nel bel mezzo deve ottemperare alle regole. Io purtroppo ho terminato la trasmissione stamattina, siete stati in tanti a telefonarci, a scriverci, non riesco a rispondervi, lo potete ben comprendere perché la trasmissione c'è sfuggita di mano, era solo l'ennesimo invito stamattina a prendere coscienza di questo argomento, andare a fare un bel controllo della propria situazione e andarsi ad arrabbiare magari a qualche CAF nel momento in cui ci si presenta con i propri requisiti contributivi ed anagrafici con la certezza che si possa andare in pensione in una data precisa e invece si scopre che si deve almeno procrastinare di un anno e mezzo adesso, a partire invece da fra qualche anno lo slittamento sarà molto più forte. Grazie avvocato Falasca, presto sappia che le manderò un sacco di mail, lo preannuncio già, quindi si fermi in ufficio nei prossimi giorni perché dovrà lavorare per me. Buona giornata. Vabbè, a presto, grazie. Salute. Grazie a tutti per averci iscritto e ascoltato, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, a Roby Scaltritti per l'assistenza tecnica. Torniamo domani. Volevo solo ricordare rapidamente che saremo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari e noi dopo le pensioni di oggi parleremo di lavoro, quindi un altro tema molto importante. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.